Non è solo affetti stabili con Radio 24, ma proprio un legame di sangue. Buona trasmissione, buona giornata. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Abbiamo già sollecitato il commissario Arcuri, il quale con ordinanza interviene a calmierare e fissare i prezzi di mercato delle mascherine. Noi non vogliamo che ci siano distorsioni, speculazioni di mercato su questo fronte. Quindi avremo un pezzo che è assolutamente giusto, equo, per remunerare le imprese che lavorano in questo settore dei loro costi di produzione e anche un piccolo margine di guadagno. Il prezzo, l'ordinanza del commissario Arcuri dovrebbe essere intorno a 0,50 per le mascherine chirurgiche. Cara Deborah, ok, il prezzo è giusto? Mica tanto. Insomma, mica tanto, infatti. È un po' a conferma di quello che dicevamo in questi giorni, Mauro, come fai sbagli? Ecco che è subito arrivata una grande insegna della grande distribuzione che si lamenta ovviamente per il prezzo stabilito a livello centrale per il costo appunto delle mascherine. E quindi hanno deciso, queste insegne, adesso le andiamo ad indicare, di ritirare da tutti i loro negozi le mascherine chirurgiche perché non ci stanno dentro. Potremmo sintetizzarla un po' così la faccenda. Eh sì, hanno costi superiori a ricavo e quindi effettivamente per chi fa commercio è un'attività in perdita che non si può sostenere se non per cose molto limitate, ma non è il caso delle mascherine che, come sai Deborah, sono già imposte severamente da ora e con la fase 2 sì. Saranno ancora più necessarie quando ci si deve spostare. Dici pure. Infatti. No, sono, allora, il gruppo CRAI ha fatto sapere di aver assunto questa decisione. Al gruppo CRAI Secom SPA fanno capo le insegne CRAI, Pellicano, Caddis, Ipershop, Pilato, ProShop, Risparmio Casa, Saponi e Profumi, Sciucchi e Small. E quindi alla luce dell'ordinanza con la quale il commissario straordinario Arcuri, il commissario straordinario per l'emergenza Covid, ha imposto la vendita al consumo delle mascherine ad un prezzo non superiore ai 50 centesimi, ha fatto sapere di vedersi costretto a ritirare dalla vendita dai negozi del gruppo le mascherine chirurgico. Loro dicono: ci rendiamo conto che ciò genererà un disservizio verso i nostri clienti, ne siamo particolarmente dispiaciuti, ma nonostante tutto l'impegno e la disponibilità dimostrati dai negozi del gruppo verso tutti i consumatori che li frequentano, siamo nell'impossibilità di vendere le mascherine ad un prezzo inferiore al loro costo d'acquisto. Questa situazione, peraltro, Mauro, sulle Sole ne è stato scritto parecchio in questi giorni, sta determinando anche le prime espulsioni dal mercato, anche questa in qualche maniera la possiamo considerare tale, no? Eh sì, perché proprio ieri, ad esempio, Silvia Pieraccini raccontava la vicenda di un'impresa che si è riconvertita per la produzione di mascherine, ma che ora dice: beh, però non a questi prezzi, non siamo in grado di garantire la produzione riducendo così tanto i nostri costi e quindi non ci conviene più. Insomma, di fatto ci ritiriamo da questo mercato dove peraltro erano appena entrati. Anche un pochino le facevano notare questi imprenditori alla collega Pieraccini, anche un pochino con spirito di servizio, cioè cominciando intanto a produrre queste mascherine e poi rinviando un po' più in là le valutazioni economiche proprio di costi e ricavi. E però adesso effettivamente con un valore fissato così, loro dicono non siamo in grado di sostenere la produzione. Vedremo certo. Se ci sarà qualche ulteriore chiarimento, siamo abituati a questa sorta di, si può dire fine tuning, sai, è quella cosa che si fa con le automobili quando devi fare un pochino di sistemazione, la vuoi rendere un po' più veloce, un po' più aggressiva, insomma, modifica la carrozzeria, ecco, c'è un po' di fine tuning anche nella normativa in questi mesi, quindi esce la normativa, però poi non sono così esperta di queste pratiche, tu le fai? Ma guarda, io le ho sentite dire da Maurizio Caprino, che come sai quando si parla di automobili, di codice della strada, eccetera, è la massima autorità sicuramente mondiale a questo punto. È vero. Senti, ma oggi invece non volevo parlare di automobili con te, ma vogliamo parlare di lavoro, che dici? Brava. Mi sembra un'ottima idea visto che è mercoledì. Brava, allora. Brava. Di che parliamo precisamente? Dillo tu. Di quale tipo di lavoro parliamo? Parliamo del lavoro agile, visto che il DPCM di domenica scorsa del governo, con questo nuovo provvedimento, praticamente il governo che cosa dice? Per tutte le aziende che riprenderanno più o meno regolarmente le attività produttive dal 4 maggio, attenzione che con i vostri dipendenti, se fino ad ora avete utilizzato lo smart working e il lavoro agile, vi prego gentilmente di continuare a farlo, sempre chiaramente per ragioni di sicurezza. Se il dipendente non è proprio nella condizione stringente di dover ritornare sul posto di lavoro, e se ci ritorna chiaramente dovranno essere seguite tutte le misure di sicurezza, ecco che appunto è il caso di continuare nella pratica dello smart working. Quindi questo lavoro agile nella fase 2 come verrà concretizzata, come si dovrà disciplinare il rapporto di lavoro, visto che viene praticamente confermata questa modalità? Se ci sono dubbi sull'organizzazione che verrà messa in atto nel vostro posto di lavoro, allora chiamateci all'800 24 00 24. Questa mattina abbiamo un rappresentante di un grandissimo studio legale italiano che ci racconterà cosa sta succedendo all'interno delle aziende, come si stanno riattrezzando le aziende, visto che dovranno prorogare i contratti di lavoro secondo questa modalità, e quindi sarà interessante capire anche se tutto questo, insomma, funziona tutto regolarmente, perché tu sai, Mauro, ne abbiamo parlato spesso, che qualche datore di lavoro non era proprio convinto di questa modalità appunto di esercizio della propria professionalità da parte di molti dipendenti. Invece molti hanno scoperto che funziona, e quindi chissà che quando torneremo alla normalità molta parte del lavoro si convertirà anche a questa pratica appunto del lavoro agile. Sì, in attesa di una normalità, diciamo che per adesso possiamo solo intravedere, e specialmente da lunedì prossimo. Però io consiglierei oggi la lettura di queste quattro paginette, anzi direi paginoni, che trovate all'interno del Sole 24 Ore. Coronavirus fase 2 è ovviamente concentrata proprio sul fatto della maggiore apertura delle attività lavorative, che poi è la cifra, diciamo, del DPCM, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile. La cifra, appunto, ci aspettavamo qualcosa di più sugli spostamenti individuali, ma è più concentrato invece sulla parte delle attività lavorative. E allora in queste quattro pagine, pur affrontando anche altre tematiche appunto degli spostamenti individuali, ci si concentra soprattutto sulle tutele da adottare sui luoghi di lavoro. Oggi all'interno del Sole 24 Ore, quattro paginoni. Abbiamo ricordato anche il numero per gli SMS e WhatsApp, Deborah? Non credo. Ti allora prego. Lo faccio io volentieri: 349-238-6666. Qualcuno ieri diceva, ma anche messaggi vocali? Sì, anche il vocale lo accettiamo con questa declinazione al maschile, che fa molto giovane, secondo me mi fa sentire molto in linea con gli ascoltatori più giovani. Saranno contente tutte le tue fidanzate di cui ci appunto mettevi al corrente ieri. Sì, ma in realtà, come sai, anche dopo il 4 maggio non potrò recarmi a far visita a loro, ma se lo farò con la mascherina e ovviamente a distanza di sicurezza, mantenendo la distanza con di le sicurezza. Esatto, allora forse andiamo avanti con le video chat, andiamo avanti invece col giornale radio del risparmio. No, perché forse c'è il numero prima. Non l'hai ricordato? Sì, però no. Mi sa che il numero non l'hai ricordato, sì. No, il numero il 3, l'ho ricordato. 4, 9, 2, 3. Non vabbè, l'hai segnato. Aspetta, prendi una matita o una penna, ce l'hai a portata, segna. Sì, sì, 349-238-6666. Dall'altra parte del vetro ridacchia da sotto la mascherina Filippo Aureggi questa mattina in regia, e dietro di lui l'attento Luca Cremonese sorveglia che tutto questo non prenda una piega troppo perniciosa. Forse c'è adesso il dillo a due di denari, Deborah? Mi sto confondendo. O il giornale radio del risparmio, un ospite, fate quello che volete dalla regia. Vedo che oggi il clima è molto così, un po' improvvisato, ma fate come preferite, ci sono tante cose in scaletta, via. La regia ha detto GRR. Amore, i soldi. Io allora, impazzisco per questa parodia di Sora Cesira, devo ammetterlo, devo fare i miei complimenti. Esatto, i village people che cantano INPS, cioè IMPS. Perché esatto. Abbiamo scelto Sora Cesira? Perché Deborah... Guarda, diamo questo bilancio, Mauro, lo diamo subito, perché intanto chiedo collegiamente alla regia se mi abbassa un pochino la musica, perché anche da casa la sento moltissimo in cuffia. Allora, ci stanno continuando a scrivere tanti lavoratori autonomi, tante partite IVA che ancora non hanno ricevuto l'indennità dei 600 euro appunto che era garantita questo mese dal governo. L'INPS ha accreditato gran parte degli importi sui conti correnti delle persone che hanno i requisiti per poter ricevere questa indennità, ma molti continuano a lamentare di non averla ricevuta. Allora, l'INPS ha posto fino ad ora in pagamento oltre 3.400.000 bonus da 600 euro per una spesa complessiva di circa 2 miliardi. La gran parte delle erogazioni è avvenuta nei giorni dal 14 al 23 aprile e la maggioranza dei pagamenti ha riguardato i lavoratori autonomi per quasi il 70%, i dipendenti a tempo determinato dell'agricoltura il 15,4% e una quota marginale ha interessato i lavoratori dello spettacolo, circa lo 0,7%, la cui platea è molto inferiore rispetto alle altre, ma naturalmente anche questi lavoratori vanno sostenuti. Questo è uno studio che inaugura una ricognizione, una collaborazione fra INPS e Banca d'Italia, finalizzata a monitorare quotidianamente i pagamenti posti a carico dell'INPS in seguito all'emanazione del decreto Cura Italia. Peraltro quasi 2/3 dei beneficiari sono uomini, le donne sono la metà delle partite IVA, Co.co.co e dei lavoratori stagionali del turismo. C'è una presenza minoritaria di giovani con meno di 25 anni, ma insomma l'indagine è molto accurata. Ci racconta anche che le regioni maggiormente interessate dal flusso dei pagamenti sono state la Lombardia, la Puglia e la Sicilia. Noi continueremo a darvi questo resoconto puntualmente. Per quello che riguarda invece le persone che ancora non hanno ottenuto questo beneficio come si aspettavano, noi abbiamo risposto proprio stamattina anche ad alcune di queste persone. Il punto è che per molti ci sono delle code ancora, perché o hanno compilato male la domanda o perché hanno compilato male l'IBAN, cioè il codice del conto corrente su cui poi va accreditato l'importo, per cui per molti lavoratori, che pur avendo hanno diritto appunto, ma per molti lavoratori l'INPS sta facendo questo supplemento di istruttoria, per cui andate a controllare se avete compilato correttamente la domanda è se avete tutti i requisiti che con certezza vi danno il diritto di ottenere questa indennità. Mauro. Per quanto riguarda poi la replica e addirittura l'ipotesi di passare a un importo maggiore, anche 800 euro, stiamo aspettando il cosiddetto decreto aprile, che però ti posso dire, Deborah, a questo punto sembrerà un decreto maggio probabilmente, cioè arrivare nel corso dei primi giorni della prossima settimana, per quanto riguarda appunto la reiterazione di questo tipo di sostegno e anche magari di altri sostegni. Si parlava anche di un aiuto ad esempio per quanto riguarda le colf e le badanti. Io ho due notiziuole che riguardano in due modi però opposti la ricerca e selezione del personale, perché da una parte c'è la segnalazione di Leonardo Nieri, che è presidente di DHR Group, che ci segnala che il 70% delle aziende clienti oggi è ferma. Ieri appunto dal suo punto di osservazione, società di ricerca e selezione personale, è una società attiva in 7 regioni del centro nord e sostiene con i propri servizi una media di 700 aziende ogni mese, principalmente nel manifatturiero, nel metalmeccanico, nel biomedicale e nell'agroalimentare. E dice appunto il 70% delle aziende che noi assistiamo in questo momento non sta lavorando. Vedremo cosa succederà da lunedì. Inoltre sottolinea Nieri sempre, c'è una forte richiesta di lavoro manuale ad esempio nel settore agricolo e poco personale reperibile da queste realtà in modo autonomo. Dall'altra parte, questo è un tema interessante, Mauro, secondo me dovremmo approfondirlo, perché se si aprono anche queste opportunità bisognerà capire come ci si potrà candidare. C'è anche un'iniziativa, credo, del Ministero del Lavoro su questo, e magari molte persone che in questo momento non fanno nulla per ovvie ragioni potrebbero candidarsi anche a questo comparto, ma bisogna capire se saranno garantiti gli standard di sicurezza eccetera. Però è un tema molto interessante, quindi mi piacerebbe, se tu sei d'accordo, affrontarlo prossimamente. Ma mettiamolo volentieri in agenda. Però ti segnalo un'altra cosa, perché le professioni, i lavori più richiesti durante il coronavirus sono, come potevi immaginare, quelli del personale sanitario, ma sta esplodendo la richiesta di addetti alle pulizie e alla sanificazione, sanificazione, quindi sanificazione, sì, degli ambienti. E poi anche, appunto, sono richiesti i magazzinieri, gli operai generici nell'industria alimentare, i banconisti e gli scaffalisti della grande distribuzione organizzata, quindi coloro che sistemano proprio i prodotti sugli scaffali. Chi mi ha rivelato tutto questo? Orienta, che ha fatto una analisi sulle sue richieste, sulle domande che gestisce, e appunto, oltre al comprensibile boom del personale sanitario, infermieri e medici, assistenti sanitari, anche coloro che comunque a vario titolo stanno nella filiera sanitaria, i magazzinieri farmaceutici, eccetera, eccetera, c'è però anche questa forte richiesta crescente a un ritmo molto sostenuto di, appunto, addetti alle pulizie e alla sanificazione. C'è un'altra notizia collegata a questo, mi pare, perché Jacopo Giliberto proprio oggi ci segnala che ci sono, appunto, da questo settore della sanificazione, che genera 1,6 miliardi di ricavi, con la crisi una piena espansione, e quindi c'è una corsa per 40.000 addetti. Deborah? Come cambia il mondo del lavoro? È pazzesco, e quindi va veramente monitorato con grande attenzione questo scenario di profondo cambiamento, del quale parleremo peraltro fra un po' con un interlocutore molto accreditato. Prima di tutto però c'è il nostro sportello reclami. Dillo a due di denari. Mi hanno appena consegnato a casa le mascherine del comune. Numero 3 mascherine chirurgiche, una per me, una per la mia compagna, una per il mio padrone di casa che vive sopra di me. 3 mascherine chirurgiche in fase discesa della pandemia. Cioè, ecco, questa è l'Italia. Cioè, io non dico tanto, almeno o un pacco di mascherine da 50 o da 100 a persona, o una mascherina FP lavabile, che almeno ti dice: io te l'ho data, te la lavi, te la curi, te la tieni bene, io te l'ho data. No, una c***o di mascherina chirurgica, quindi usa e getta, a persona. Questa è l'Italia del Nord, dell'eccellenza sanitaria. Voi dovete parlare di queste cose, sennò il vostro servizio è inutile, è solo terapeutico per quelli che si vogliono sfogare. Ecco. Beh, mi pare che il signore si sia sfogato a sufficienza, no? Esatto. Adesso speriamo che non si sfoghino tutti quelli che manco hanno avuto le due mascherine dal comune, perché, ecco, altrimenti il centralino esplode. Tu hai ricevuto qualcosa? No, non ho ricevuto niente, però invece l'azienda, devo dire, mi ha fornito, esatto, però quelle aziendali, le mascherine, esatto, aziendali. Va bene, andiamo al primo tema della puntata, introducilo pure tu, Deborah. Via, introduciamolo con una sigletta. Il nuovo lavoro. Chiedo scusa a Filippo Auregi, naturalmente, con questa conduzione disgiunta, ovviamente. Facciamo qualche pasticcio con le sigle, ma poi le mandiamo in onda regolarmente. L'importante è non fare pasticci con il primo ospite di oggi, che salutiamo, Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia. Ben trovato e buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, lo abbiamo convocato perché Randstad, Adecco Group e Manpower Group sono 3 aziende leader nel settore delle risorse umane a livello mondiale, hanno annunciato proprio ieri pomeriggio un'alleanza per favorire un rientro al lavoro in sicurezza nelle fasi che stanno seguendo il lockdown, che seguiranno il lockdown totale o parziale. È una impresa che coinvolgerà 2 miliardi e 700 milioni di lavoratori in tutto il mondo, e quindi l'81% della forza lavoro globale. Ovviamente a noi Ceresa interessa capire intanto come è nata questa iniziativa, ma soprattutto che cosa farete per quello che riguarda l'Italia, visto che avete messo in campo la massima forza possibile, e quindi, insomma, è una iniziativa assolutamente rilevante. A che tipo di domanda avete voluto dare una risposta? Prima di tutto abbiamo voluto mandare un messaggio, cioè dobbiamo essere coesi in questo momento. Dobbiamo lasciare da parte tutte quelle che sono le difficoltà che ci sono, e dobbiamo far ripartire le aziende, assicurando però la sicurezza delle persone, perché non possiamo ricadere in un altro nuovo problema sanitario, il rischio c'è. Per cui abbiamo visto che, mentre nel sud dell'Europa sempre di più ci sono normative che vengono dai governi e così via, Nel nord Europa invece si danno le linee guida e poi si lasciano le aziende ad organizzarsi con il buon senso. Allora abbiamo raccolto tutti quelli che sono i protocolli che ci sono in giro per l'Europa nelle varie industrie e abbiamo creato assieme degli esempi e dei suggerimenti che le aziende possono usare e le persone possono usare per appunto tornare al lavoro in sicurezza, perché riteniamo che è importante tornare al lavoro e produrre, perché se no nel lungo periodo, nel medio periodo ci saranno dei problemi economici e sociali molto importanti da affrontare. Praticamente avete una sorta di catalogo delle buone pratiche, verrebbe da dire delle ottime pratiche, visto che c'è questa alleanza tra voi, Randstad, Adecco e Manpower, avete praticamente una sorta di ottime pratiche da adottare sui vari luoghi di lavoro. È anche declinata per tipi, per settori di attività e così via? Assolutamente sì, abbiamo preso vari settori come ad esempio quello della logistica, oppure quello del manufacturing, cioè della produzione metalmeccanica, anche quello del food. E poi siamo arrivati con dei suggerimenti che diamo alle aziende, anche molto banali e semplici, che servono per anche rassicurare gli imprenditori e dire ok, se faccio così vado a ridurre il rischio di contagio dei miei dipendenti. Voglio fare degli esempi, no? Non so, nella logistica, ad esempio, è importante facilitare l'utilizzo di strumenti di pagamento che non siano del denaro, perché il denaro passa a microbi. Oppure, non so, negli uffici far usare meno l'ascensore, far usare le scale e disegnare i percorsi sul pavimento per far sì che le persone non si incrocino, no? Come abbiamo visto fare ad esempio per i mezzi pubblici in previsione, esatto, appunto del 4 maggio, di lunedì prossimo, voi dite si possono creare questi percorsi differenziati anche in azienda, anche negli uffici. Assolutamente, ma poi ad esempio bisogna cambiare i turni, bisogna diminuire la velocità delle linee di produzione perché così si riescono a rispettare le distanze, cioè questa alleanza tra Randstad adesso e Manpower ha voluto dare dei suggerimenti molto pratici per mettere in sicurezza appunto le aziende e anche gli imprenditori. Ho visto che quale sarà... Prego, sì, Deborah. Sì, tra l'altro non sentiamo benissimo. Volevo chiedere un passaggio, siamo già quasi alla pausa, ma magari un ultimo passaggio proprio sul modello italiano a cui pensano. Quali sono le aziende che vanno supportate maggiormente? Insomma, che tipo di percezione hanno avuto rispetto alle difficoltà in cui molte aziende italiane si trovano in questo momento? Come sosterranno in particolar modo quelle italiane? Beh, allora, per quanto riguarda l'Italia, diciamo ci sono anche delle normative che a volte non sono chiarissime, ma per il momento è veramente stato improvviso e difficile. E allora noi aiutiamo le aziende a interpretare queste normative e poi a mettere in atto tutte queste cose che devono essere fatte all'interno delle aziende per riuscire a non avere i problemi con le persone. Molto, molto pratico, molto operativo. E perciò tutto questo lo facciamo chiaramente gratuitamente, nel senso che i nostri clienti possono chiederci questo supporto, noi glielo diamo e poi se ci sono da sviluppare dei progetti particolari lo possiamo fare noi o lo possono fare anche direttamente le aziende stesse. Quindi già collegandosi ad esempio sui vostri siti uno può avere accesso o richiedere queste best practice, queste buone pratiche che avete individuato? Sì, sì, sì, tutte le nostre filiali hanno a disposizione questo materiale, lo hanno già iniziato a fare, possono interloquire con i clienti e così possono diciamo trovare tutte le soluzioni necessarie del caso. Bene, grazie Marco Cerese. Allora speriamo appunto che questa ripresa di alcune attività economiche avvenga in sicurezza, non comporti ulteriori intoppi, davvero non sarebbe il caso. Ringraziamo Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia, che insieme a Adecco e Manpower ha realizzato questo percorso di ritorno al lavoro in sicurezza. Cara Deborah, vorrei segnalarti che sono oramai le 11:30, si è fatta una certa, direbbero a Roma. Oh, santo cielo! Allora andiamo. Andiamo, le borse. Ritroviamo il senso dell'uomo nonostante la borsa. Due di denari. E abbiamo il piacere di avere come ospite, e credo sia un debutto per lui, ma non vorrei sbagliarmi, Aldo Bottini, partner dello studio Toffoletto di Luca Tamaio, presidente degli avvocati giuslavoristi italiani. Allora, avvocato Bottini, peraltro firma storica e notissima ai lettori del Sole 24 Ore, benvenuto o bentornato a Due di Denari. Mi tolga subito questo dubbio. Eccomi qua, buongiorno, quale dubbio? È un debutto il suo? È un debutto, no, il suo? Non esattamente, sono andato a rivedere la mia agenda e credo che noi ci eravamo sentiti in trasmissione un paio d'anni fa. Ecco, vedi, allora l'abbiamo disturbata nuovamente perché Deborah e io abbiamo parecchie... Glissiamo sulle nostre capacità di ricordo perché rimuoviamo, come dire, circostanze abbastanza rapidamente. E vabbè, quindi abbiamo glissato, Mauro, sulle nostre come dire, capacità mentali di ricordarci. Sai che cose. Sono distratto. Ma per fortuna abbiamo gli strumenti tecnologici che ci aiutano. Sai, ecco, che sono distratto, cara Deborah, ma sa Bottini, noi abbiamo tanti dubbi, Deborah e io, su questa applicazione dello smart working soprattutto. Allora, abbiamo capito Vediamo. Che dal 4 di maggio, in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ultimo, quello del 26 aprile, è comunque consigliato, caldeggiato, non so qual è il termine giusto, lo smart working, cioè potendo lavorare da remoto, ci sta dicendo il governo. Esatto. Allora, se, prima di tutto, appunto, se mi conferma che c'è questo tipo di indicazione, poi se questo però comporta qualche tipo di vincolo, posso ricorrere allo smart working, ma prima devo, che ne so, aver smaltito le ferie o cose del genere, ci sono delle condizioni o dei vincoli particolari? Ma noi veniamo intanto da un periodo in cui lo smart working è stato per molte attività sospese l'unico modo di garantire la business continuity, cioè l'unico modo di continuare a lavorare, perché è stato certamente raccomandato fin dall'inizio dell'emergenza, è stato agevolato con disposizioni specifiche che ne hanno reso più semplice immediato utilizzo, ma è già stato praticato, cioè non è una novità che entrerà in vigore il 4 maggio, cioè io credo che in questo periodo tutti noi abbiamo avuto confidenza con questo modo di lavorare e abbiamo vissuto una grande sperimentazione di massa dello smart working. Io credo che c'era un'indagine di Nomisma che diceva che addirittura con un sondaggio che hanno fatto il 43% degli occupati ha lavorato almeno qualche giorno da remoto, quindi l'abbiamo già ampiamente sperimentato e tutto sommato ci è piaciuto, con alcune criticità per carità, però la maggioranza degli italiani, sempre secondo Nomina, ha apprezzato e vorrebbe continuare a praticarlo. Ora, in questa fase di rientro al lavoro, fase 2, diciamo così, lo smart working è uno strumento importantissimo per mantenere il cosiddetto distanziamento sociale, cioè per rendere meno affollati i luoghi di lavoro. In sostanza ci stanno dicendo: tutto quello che può essere fatto da remoto è bene che continui, è fortemente raccomandato che continui ad essere fatto da remoto, proprio perché invece chi ha necessità di andare in un luogo di lavoro fisico lo possa fare in condizioni di non affollamento. Cioè, se tutto quello che può essere fatto da remoto viene fatto da remoto, sui luoghi di lavoro ci saranno meno persone. E non è solo un consiglio, perché sta anche nei protocolli sulla sicurezza. Quindi è un dovere per i datori di lavoro favorire lo smart working. Avere luoghi di lavoro meno affollati possibile, in condizioni in cui sia possibile attuare il distanziamento sociale. Quindi non è solo un consiglio, una raccomandazione, è un dovere, fa parte del dovere di sicurezza. Tutto quello che può essere fatto da remoto deve continuare a essere fatto da remoto. Ho un dubbio, Deborah, che vorrei sottoporre, sì, all'avvocato, un dubbio un po' da norme e tributi, ma immagino che forse sia anche il dilemma di più di un imprenditore, insomma, aziende piccole o grandi. Il decreto, il DPCM del 26 aprile ha validità fino al 18 maggio, ma la possibilità di utilizzo dello smart working mi pare vada fino al 31 luglio, di questo smart working facilitato, per così dire, che abbiamo introdotto. È così. Quindi è non così. È che il datore poi, diciamo così, stabilisce una modalità di lavoro fino al 18 maggio e poi dal 19 deve stabilire nuovamente. Cioè lo smart working può essere prorogato, utilizzato fino al 31 luglio almeno. Può essere adottato nella forma semplificata fino al 31 luglio, poi dopo riprenderanno vigore le norme, diciamo, normali sullo smart working. Ma io credo che, tra l'altro, anche l'impresa, a parte che piace, come sembra di capire dalle indagini, piace ai lavoratori, ma secondo me piace molto anche agli imprenditori. Cioè, questa forma di lavoro presenta, se fatta bene, adesso l'abbiamo fatto tutti in emergenza. Un po' alla Garibaldina, verrebbe da dire. Garibaldina. C'erano, per carità, molte aziende, molte, soprattutto grandi aziende strutturate, che avevano già in piedi, prima dell'emergenza, politiche di smart working. Secondo il Politecnico di Milano c'erano 500.000 lavoratori che lavoravano in smart working prima dell'emergenza, adesso qualche milione ovviamente. Ma questa, chi l'ha fatto già da tempo e anche chi l'ha sperimentato, ha sperimentato il fatto che è una forma lavorativa che, se ben attuata, giova anche all'impresa, perché è un modo di lavorare, da un certo punto di vista, rivoluzionario, cioè un modo di lavorare in cui non conta più il tempo, conta il risultato della prestazione, certo, lavorativa. Tra l'altro, avvocato Bottini, no, la cosa interessante magari sarebbe ricordare qual è, come dire, anche un po' la storia di questo istituto del lavoro agile nel nostro paese, no? Perché certo, non si tratta semplicemente di avere una dotazione tecnologica adeguata in casa per poter espletare tutte le proprie mansioni e ovviamente il telefono con cui collegarsi ricorrentemente con clienti, fornitori, colleghi di lavoro e quant'altro, ma c'è proprio una cornice anche giuridica molto molto molto precisa con la quale ci confrontiamo già da qualche anno a questa parte. Certo, c'è una legge del 2017, lo smart working è contenuto in quella legge del 2017 che è passata, diciamo così, alla storia come il cosiddetto Jobs Act degli autonomi, ma c'è una parte sul lavoro, disciplina il lavoro agile e lo disciplina, secondo me, in modo molto flessibile e molto adattabile alle circostanze. C'erano esperienze di lavoro agile anche prima, ante litteram, ma anche prima della legge in alcune aziende. La legge ha dato una cornice normativa e soprattutto ha rassicurato circa l'estensione al lavoro agile della tutela sugli infortuni sul lavoro. Esattamente, perché il nodo fondamentalmente era quello. Esatto, ha dettato delle regole. Ecco, la cosa importante adesso da dire è che oggi noi sperimentiamo il lavoro agile stando a casa, perché dobbiamo stare a casa per via delle disposizioni sanitarie. Ma lo smart working non vuol dire lavorare da casa, non necessariamente da casa, soprattutto. Significa lavorare per obiettivi, l'azienda ti assegna un determinato compito da svolgere, tu entro certi tempi sai che devi rispettare, esatto, questo impegno, e quindi, diciamo, lo spirito fondamentalmente è questo. Lo spirito della la legge dice: lavorare senza precisi vincoli medio orario nel luogo di lavoro. Non è più importante l'orario che fai, non è più importante il luogo, che, se volete, erano i due cardini storicamente del lavoro subordinato. Io vado in un certo posto a lavorare per un certo numero di ore. Ecco, queste cose qua scolora completamente. Nello smart working l'importante è essere, avere assegnati dei risultati e raggiungerli. Avvocato Bottini, abbiamo diverse domande di varia natura. Allora, innanzitutto già ci ha ricordato questo fatto che appunto adesso noi stiamo facendo più quasi un telelavoro, che era il papà dello smart working o lavoro agile, nel senso che era il trasferimento della postazione di lavoro in un altro posto, di solito a casa del lavoratore, però con tutta una serie di strumentazioni e di vincoli che somigliavano un po', era come portarsi da scrivania a casa, insomma. Esatto. Lo smart working è un po' diverso, anche se adesso stiamo forzatamente sperimentando proprio da casa. Questo lo notava più di un ascoltatore, ma ci ha già spiegato appunto come siamo come cornice normativa. Alcuni si chiedono però, va bene, ma ad esempio alcune parti della retribuzione, che so, i buoni pasto, mi vengono assegnati ugualmente se io sto in smart working o no? A posto che adesso la ristorazione, ohimè, non è utilizzabile al meglio se non per asporto, eccetera, eccetera. Però la domanda ci può stare, sì, e comunque prende, fa parte della retribuzione. Questo è un tema controverso. Allora, diciamo una cosa, che il principio generale è quello della parità di trattamento. Il lavoratore agile non può subire un trattamento inferiore rispetto a chi lavora fisso in azienda sulle stesse mansioni. Quindi diciamo che il principio generale nel quale dobbiamo muoverci è quello della parità di trattamento. Ora, a quali istituti, in particolare se si estenda o meno al buon impasto, è questione controversa. Ci sono accordi sindacali che dicono che spettano, altri che non spettano, qualcuno li paga, qualcun altro non li paga. Diciamo che dal punto di vista delle retribuzioni ovviamente non ci possono essere trattamenti inferiori. Il buono pasto, diciamo, è un'indennità sostitutiva del servizio di mensa, quindi molte aziende hanno ragionato sul fatto che il lavoratore agile, perché non lavora, non sempre perlomeno lavora in azienda, non usufruirebbe della mensa e quindi corrispettivamente non usufruisce del buono. La questione è controversa obiettivamente, perché dall'altra parte si potrebbe obiettare, dice vabbè, ma in fondo fa parte del trattamento complessivo e quindi il principio di parità di trattamento. Allora, la questione, ci pensiamo, non è ancora finita nei tribunali per ora. Ma presto sarà come dite voi avvocati, sub iudice, cioè sottoposta al giudice. Adesso andiamo quando a sentire. Quando riapriranno i tribunali, perché bisogna anche considerare questo aspetto. Con calma, perché adesso c'è il traffico, fermi lì. Due di denari. No, sono molto contento di sentire questi dettagli, cara Rosciani, però io ho presentato la domanda il 2, non ho reddito e oggi, che è il 29, non ho ancora ricevuto un tubo e ho la domanda in attesa di esito, quindi per me sono tutte chiacchiere al vento. Scusatemi, ma io devo mangiare. Buongiorno. Il governo per i mesi di marzo-aprile ha concesso ulteriori 12 giorni per chi usufruisce della legge 104 e devo dire che nel mio caso, visto che assisto mia mamma, che ha la 104, mi ha fatto molto comodo. Mi chiedo se per il mese di maggio è stato previsto un altro incremento di questi giorni di permesso. Grazie, buona giornata. Sì, confermo che a mia madre l'hanno chiamata stamattina dall'INPS perché non aveva inserito il civico nell'indirizzo di residenza, quindi l'hanno chiamata per completare questi dati. Comunque oggi ho caricato in una raffineria, ti fanno usare l'impronta digitale, quindi senza guanti, il detergente non c'è e tanti giravano senza maschera e vai! Buongiorno, l'Italia è un paese di piccole e medie imprese prevalentemente. Il lavoro agile non aiuta in questo senso perché tantissimi artigiani non hanno bisogno del lavoro da casa, devono esserci per forza. Infatti... non male però questo carosello di messaggi. Mamma mia, incredibile. Aspetta, però, risolviamo subito la questione a 104, perché ce la chiedono in diversi. Sì. Avvocato Bottini, ancora non c'è nulla per la 104 di maggio, cioè si tornerebbe ai giorni consentiti pre-Covid. Quindi i 12 extra marzo e aprile sono finiti e basta. È così, ma io penso che ci sarà qualcosa nel cosiddetto decreto aprile che ormai che diventa decreto maggio. Esatto. Però credo che così come molti altri tipi di interventi che sono stati adottati con il vecchio decreto probabilmente saranno prorogati, però non lo sappiamo ancora. Dobbiamo aspettare appunto il decreto cosiddetto aprile, forse settimana prossima, e allora sarebbe il decreto aprile che arriva a maggio, ma non formalizziamoci sul calendario. Invece moltissimi chiedono: lavoro da casa, va bene, mi sta bene, ma quali tutele ho? Cioè c'è tutto un problema di sicurezza sul posto di lavoro. A casa magari siamo un pochino più faciloni, avvocato Bottini. Cioè, chi lo sa se poi i collegamenti elettrici sono tutti in ordine. Allora, intanto c'è la copertura INAIL e questo è importante, no? Perché prima del 2017 non c'era. Quindi chi lavora in smart working in questo momento da casa ha la copertura INAIL. Per quanto invece riguarda la salute e la sicurezza, la legge del 2017 la affida soprattutto a due strumenti, che sono l'informazione, cioè il lavoratore agile deve essere informato sui rischi che corre per il lavoro fuori dall'azienda e su quello che può fare per evitarli, e deve essere formato. Oggi nell'emergenza l'informazione sui rischi per la salute e la sicurezza può essere data in forma standard scaricando un file PDF dal sito dell'INAIL, e va bene. A regime bisognerà invece che si faccia un'informativa su misura. L'altro principio che pone la legge è che una volta che il lavoratore è stato informato sui rischi che corre, quindi sul fatto per esempio che deve stare attento che luogo da cui lavora sia norma che se non lo è corre qualche rischio, una volta che è stato informato e formato scatta però anche il suo dovere di cooperare nell'attuazione della prevenzione dei rischi. Anche questa è una novità importante della legge. Infatti è per quello che diceva l'autotrasportatore che ha detto: ma io sono andato a consegnare, qua nessuno si mette la mascherina, devo dire non di rado capita di imbattersi in queste situazioni, si sa, la familiarità sui luoghi di lavoro magari porta a non rispettare il distanziamento, eccetera, eccetera. Quindi qui non siamo più neanche nello smart working, no, ma diciamo in generale, nel lavoro tradizionale. Come c'è una responsabilità anche del lavoratore, però? C'è una responsabilità anzitutto del datore di lavoro, soprattutto per quanto riguarda il lavoro svolto in modo tradizionale in azienda. Quindi i luoghi di lavoro devono essere organizzati in modo da tutelare la salute e la sicurezza. Adesso abbiamo i protocolli, quello del 14 marzo e quello del 26 aprile, e quelli che si stanno facendo un po' in tutte le aziende, che dettano regole. Questa è sicuramente una responsabilità del datore di lavoro, quello di mettere in sicurezza i luoghi di lavoro. Dopodiché c'è anche una, chiamiamola, corresponsabilità o comunque un dovere del lavoratore, ma c'è sempre stato, di cooperare nella attuazione delle misure di sicurezza. Quindi, ma infatti qualche volta colpisce un po', no, questo commento molto duro che molti lavoratori fanno rispetto ovviamente a protocolli che l'azienda non attua, che è una questione ovviamente grave e seria, ma d'altro canto anche come lavoratore abbiamo le nostre responsabilità magari di suggerire, sollecitare, farci anche portatori un po' di buon esempio, no? Avvocato Bottini, so che sembreranno dei ragionamenti forse superficiali, ma io credo che in questa fase particolare ognuno deve fare il suo senza aspettare che arrivi come dire, sempre il richiamo, l'indicazione, l'istruzione dall'altra parte. Certo, questo non c'è dubbio, c'è sempre stato un dovere del lavoratore di cooperare. È chiaro che assume una forma diversa nel luogo in azienda e nello smart working, perché in azienda il datore di lavoro e i dirigenti possono controllare che le misure vengano attuate e possono controllare appunto che il lavoratore metta la mascherina, che il lavoratore si mette i guanti. Sullo smart working non c'è controllo fisico e quindi il dovere di cooperazione del lavoratore è ancora maggiore. Mauro, c'è questa domanda di questo ascoltatore da Firenze. Sì, che volevo proprio presentarti, cara Deborah. Esatto, prendiamo per ultima semplicemente perché ci serve il racconto di Ugo, la richiesta, la domanda di Ugo, perché così con l'avvocato Bottini possiamo fare proprio una sorta di vademecum per quelle aziende che a questo punto magari non avevano avuto bisogno di farlo fino a questo momento, ma adesso la modalità del lavoro agile con determinati dipendenti si rende necessaria. Da dove si parte? Ugo da Firenze, benvenuto. Benvenuto, grazie per avermi. Vi seguo ormai da anni. Grazie. Io questa domanda. Noi è già da tanto tempo che cerchiamo di far lavorare. Io ho due segretari, la mia è un'azienda artigiana. Ho due segretari, uno delle segretarie è una bambina piccola. Ugo, parli un pochino più lentamente, vicino al microfono il più possibile, perché la sentiamo male. Grazie. Ok. Allora, stavo dicendo questo. La mia è un'azienda artigiana con pochi dipendenti, si occupa di termoidraulica. Ho due segretarie. Una delle due segretarie ha una bambina piccola e io già da un paio d'anni ho cercato di agevolarla facendola lavorare da casa. Poi parlando con il mio commercialista ho scoperto che io sono responsabile della sicurezza del suo ambiente di lavoro a casa e questo mi ha molto spaventato al punto tale che ho preferito sospendere questa possibilità. Questa povera segretaria è costretta a venire a lavorare una settimana, tra l'altro viene da un comune fuori Firenze, un comune in collina da Baiano, e a me dispiace molto questa situazione, vorrei poterla aiutare, ma non riesco a capire come uscirne, perché io non posso sapere come se l'ambiente di casa sua è sicuro, tra l'altro con una bambina, quindi lavora in orari, faccio conto, dalle 10 di sera a mezzanotte, all'una. Oppure cioè, lavora ovviamente negli orari in cui la figlia gli permette di lavorare. Certamente, perché è il vantaggio del lavoro agile. Come? Che poi è il vantaggio del lavoro agile, cioè se uno ha ad esempio la bambina piccola può un pochino organizzarsi sulle mansioni lavorative e portarle a termine nella fase in cui la bambina richiede meno attenzione, ad esempio. Però questo mi spaventa perché se lavora dalle 10 di sera all'una, nel momento in cui ovviamente l'attenzione è minore perché siamo abituati a lavorare durante le ore giornaliere, non la notte. Cioè, mi spaventa, mi ha molto spaventato al punto di dover sospendere questa cosa, però sono mortificato perché non riesco a capire come fare ad aiutarla. Allora, sentiamo l'avvocato Bottini, perché mi pareva che l'avvocato Bottini prima ci spiegasse la cosa in un modo un po' meno tranchant rispetto a quello che era stato il consiglio del commercialista del signor Ugo. Il consiglio dato al signor Ugo ha presente la vendita del vecchio telelavoro. Cioè il vecchio telelavoro, che come dicevamo prima, si caratterizzava per il fatto che veniva allestita una postazione lavorativa a casa. È chiaro che c'era il dovere del datore di lavoro di allestire la postazione lavorativa, addirittura gli accordi sul telelavoro prevedevano la possibilità di fare ispezioni nel domicilio del dipendente per vedere se tutto era norma. Tutto questo non c'è più nel lavoro agile. Come dicevo prima, non confondiamo il fatto che dobbiamo stare a casa per forza con il fatto che il lavoro agile sia fatto da casa. Non c'è una postazione lavorativa. Il lavoro agile, quando potremo uscire, potrà essere fatto anche da altri luoghi. Quindi non c'è... Banalizzo, dal bar della spiaggia, tanto per dire una cosa che adesso non si può fare, ma che sognerei di fare. Certo. Quindi non c'è il dovere del datore di lavoro di allestire una postazione lavorativa, posto che non c'è più un luogo fisso dove lavorare. Il problema, dicevo, è quello di informare. Quindi è chiaro che il datore di lavoro dovrà dare un'informativa al lavoratore dicendo attenzione che se stai troppo tempo al computer senza far pause potrai avere dei danni alla vista, se stai seduto in un posto che è sbagliato per troppe ore ti potrà venire il mal di schiena, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, certo. Quell'altra questione che pone invece l'ascoltatore riguarda invece gli orari. Sì. Fermo restando che non ci sono vincoli di orario precisi nello smart working, però c'è il vincolo dei riposi. Cioè, questo deve essere scritto a chiare lettere nell'informativa sulla salute e la sicurezza e anche nelle istruzioni. Secondo me quello che oggi dobbiamo fare, per chi già non l'avesse fatto, vero che non si può prescindere dall'accordo individuale che normalmente regola lo smart working, si può farlo senza scrivere questo accordo, però delle istruzioni al lavoratore secondo vanno me date ugualmente. Tra queste istruzioni c'è quella relativa ai riposi. Esatto, sì. Perché altrimenti, mi scusi avvocato, la interrompo, ma siamo veramente agli ultimi 20 secondi, non facciamo in tempo a ascoltare Paola che diceva c'è fondamentale avere la strumentazione per lavorare bene, ma tanto di smart working torneremo a parlare, quindi avvocato Bottini, la ringraziamo e resti a disposizione, non lasci la città perché avremo ancora bisogno di lei. Che dici, Deborah? Dico che è un work in progress, Mauro, perché io stessa che lavoro da casa dall'11 marzo ancora continuo a fare dei piccoli aggiustamenti di carattere tecnico con il supporto chiaramente dei colleghi che da Milano, dallo studio di Milano appunto mi seguono, per cui non è che da un giorno all'altro tutti siamo pronti per poter esercitare il nostro lavoro al meglio con questa modalità. Stiamo tutti quanti imparando sul campo come si fa e quindi è anche giusto che sia così. È uno smart working in progress e con questo sfoggio di inglese vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani. Da domani, buona giornata a tutti.